Vabbè, insomma, adesso così sto chiacchierando, giusto Sì, per a far questo di punto echi. ti interrompo e comincio a dire di cosa si tratta, anche perché nel frattempo è stata attivata una diretta, quindi anche a beneficio di chi ci sta ascoltando così debotto, senza senso, nell'area urbana di Cosenza sui 105.7 FM di Radio Ciroma, radio comunitaria che dal 90 trasmette in quella zona, è in streaming. Siamo ad ACM Meeting, l'incontro nazionale, ma non solo, delle controculture digitali. Siamo a Reggio Calabria, più precisamente nel quartiere di Gallico, al centro sociale occupato autogestito Angelina Cartella. Questo è uno dei talk, uno degli interventi di questo meeting. Se ci ascoltate a Cosenza, siete in tempo a venire, mettetevi in macchina, perché poi stanotte ci sono i 10 minutes nell'arena e ci sarà da divertirsi e da imparare, forse, chissà, forse, molto forse. E questo talk è un talk sulla ripubblicazione di un romanzo particolare, anche difficile da definire come romanzo. Magari alla fine del talk qua proiettiamo questo ipertesto, perché si tratta del primo ipertesto pubblicato in Italia nel 1993, e siamo qui a parlarne con l'autore Lorenzo Miglioli, che è presente in videoconferenza. Questa ripubblicazione fa parte di un percorso archivistico che stiamo portando avanti con il Museo dell'Informatica Funzionante di Palazzo Lacreide, il Museo Interattivo di Archeologia Informatica di Cosenza e il gruppo informale per il momento LEI, Letteratura Elettronica Italiana. C'è qui anche Roberta che ci parlerà di questo aspetto. Da oggi è online su archive.org. Questo testo è anche la parte multimediale, la parte interattiva, la parte ipertestuale, ottenuti dai media originali, quindi la scansione con OCR del libro e il dump dei dischetti per Windows 3.1 e Macintosh System 6 o 7. Con l'emulatore integrato di Archive.org, quindi si può ripercorrere tutta l'esperienza originale. Abbiamo voluto fare questo perché il testo è introvabile, non è stato mai più ripubblicato e naturalmente probabilmente non aveva senso ripubblicare i media originali per Windows 3 perché non faceva ridere, e quindi è praticamente sparito. Non esisteva un dump di nessun genere di questi dischetti, non esisteva una scansione, le copie, non credo che un romanzo sperimentale come Radio, pubblicato insieme a Afternoon di Michael Joyce in questa edizione, avessero fatto milioni di copie, quindi è anche di reperimento estremamente difficile, anche se qua nel nostro pubblico selezionatissimo abbiamo qualcuno, una persona che ce l'ha, che c'ha ancora il libro, i dischetti, però è un evento raro trovare una copia di questo libro e non esistevano, come dicevo, pubblicate online, per cui per preservare questo pezzo di storia della letteratura italiana abbiamo deciso di fare questa ripubblicazione anche, diciamo, come dire, senza pensarci su troppo rispetto alle conseguenze sul eventuali copyright detenuti, immagino, dalla casa editrice, però diciamo non ci abbiamo pensato su troppo. Per noi il discorso del fair use e quindi dell'archivistica, della preservare la storia, è molto più forte di qualsiasi interesse di diritto d'autore. Abbiamo trovato in Lorenzo anche un interlocutore che non c'è, insomma, non ci ha pensato neanche lui per un attimo. Non so, quindi io. Tranquillizzarti perché i diritti sono miei. Ah, bene. Tanto che non ci avevamo pensato, neanche ne avevamo parlato di chi fossero. Niente, passerei la parola a Roberta, visto che già qualcuno si è affacciato, e poi a Lorenzo. Grazie Milano, grazie a tutti, grazie a Hack Meeting per averci ospitato, grazie a Lorenzo per essere qua. E niente, no, magari giusto un minimo di forse introduzione, e magari il contesto storico. Ecco, 30 anni fa, 93, Radio è stato il primo ipertesto commercializzato in Italia, a poca distanza, in realtà a pochi anni di distanza da quella che è stata la prima scuola riconosciuta un po', se volete, anche a livello accademico, no? Di narrativa ipertestuale. C'era questo hype della narrativa ipertestuale che risale all'87. Il primo ipertesto è stato l'87, appunto, Michael Joyce, Afternoon Story, che è stato pubblicato per la prima volta in italiano proprio insieme a Radio nella famosa pubblicazione originale del 93, uscita in doppia versione. Questo è interessante, anche ci dà un po' il polso degli anni, se volete, in edizione cartacea e appunto allegato il floppy, quindi c'era questa doppia versione. Ed era appunto la prima volta che veniva introdotto in Italia l'ipertesto statunitense, e viene considerato il primo ipertesto narrativo pubblicato, diciamo così, della storia. Giusto Mario, una nota che può essere interessante: negli Stati Uniti, dopo Michael Joyce, altre persone pubblicarono degli ipertesti usando la stessa piattaforma, perché Afternoon venne elaborata anche per far vedere quelle che erano le potenzialità, no, della piattaforma StorySpace, che poi è stata acquisita dalla casa editrice di Bernstein. Quello che volevo dire è che, insomma, fu presentata per presentare le potenzialità di questa piattaforma, che consentiva sia la scrittura ipertestuale sia la lettura ipertestuale, e negli Stati Uniti si formò una scuola, cosiddetta scuola di StorySpace, appunto era la piattaforma che veniva utilizzata, con 5 romanzi famosi ormai citati, diciamo, nell'accademia, nelle antologie, eccetera. Ecco, una nota magari già possiamo iniziare a dire, che in Italia non avvenne così, no? Lorenzo, tu sei stato primo e mi sembra forse l'unico, insomma, a usufruire a distanza di pochi anni, perché il primo è stato dell'87, il tuo del 93, di questa piattaforma. Quindi in Italia non c'è stata, diciamo così, l'equivalente di questa scuola di StorySpace. Quindi poi magari, se ti va più in là, ci puoi raccontare qualcosa riguardo questo utilizzo molto diverso che tu hai fatto di questa stessa piattaforma, perché mentre gli statunitensi si sono orientati più verso il discorso, se vogliamo, anche di legato all'aspetto filosofico del letterario, ovviamente, del postmodernismo, no? Era l'epoca della pubblicazione di Lyotard, la condizione postmoderna, quindi c'era tutto il discorso sulla non linearità della scrittura e il parallelo tra il testo e il corpo, quindi non linearità, non binarismo, potremmo dire, dare anche un po' gli strumenti al lettore. Si è molto parlato di empowerment, no? Il lettore che poteva finalmente, o la lettrice ovviamente, che poteva finalmente scegliere il proprio percorso di lettura, quindi si calcò molto l'accento su questo. Tu invece hai preso un'altra direzione, anche provocatoria, addirittura dicendo ho scritto questa cosa, anzi meglio, l'ho data in pasto a questo programma, ma non l'aprite, no? Quindi a te è un discorso anche concettuale, artistico, da ready made, quindi un approccio, credo, molto molto diverso. Quindi se ci vuoi dire, parlare un po' di questo approccio diverso che hai utilizzato, e anche quelle che magari all'epoca hai trovato come le potenzialità di questa piattaforma, e anche forse il titolo che può incuriosire. Comunque la parola è tua. Vai. Andare io? Sì, sì. Ah, scusa, non avevo capito. Vai. No, allora farei una piccola opera di contestualizzazione. Nel 93 Internet ancora era così, insomma, era quasi arrivata, non era proprio arrivata del tutto. C'erano le BBS, c'erano due o tre entità come Italia Online, cioè c'erano due o tre cosette, ma niente di particolare. E i modem andavano ancora a 52K, quindi insomma, non, diciamo così, il fattore tecnologico non era ancora diventato epico, era ancora una cosa che attraeva in maniera quasi esoterica. All'epoca io conobbi alcune persone che invece lavoravano in questo campo, per esempio i ragazzi di Decoder, insomma tutti questi parecchie persone che erano lì intorno. Mi affascinava moltissimo il mondo di questo che ancora non veniva chiamato il mondo del digitale, cioè nel senso che non c'era ancora stata una teorizzazione del digitale. E ci fu, mi fecero vedere Storyspace, perché ricevetti un regalo, mi regalarono l'Apple II, che era bellissimo, aveva 20 mega di memoria, insomma, no? E mi fece vedere Storyspace, io rimasi molto colpito da una cosa molto precisa, cioè che prima ancora di farti immergere nella possibilità di costruire una storia, ti presentava una possibilità di mappa fisica, visibile, davanti a te, articolando i percorsi delle varie cartelle dove tu avresti messo ogni passaggio e ovviamente attraverso i link avresti giocato. Questo mi colpì moltissimo, ancora non capivo bene perché. Ci lavorai un po', misi dentro tre racconti. I tre racconti sono, il primo si chiama Radio, appunto. Radio perché Dio è il sistema e Ra è il suo sistema esoterico, un po' è quello, una sorta di universo parallelo hacker del sistema principale che noi chiamiamo Dio, insomma questa invenzione di cui abbiamo avuto bisogno per avere il terzo lato del triangolo con cui poter interagire e poter quindi differenziarci. E Radio è la storia di questo tecno guerriero che arriva sulla Terra, quindi una storia di fantascienza, arriva sulla Terra e quando arriva sulla Terra scopre che non ci abita più nessuno, non c'è più nessuno, ma in realtà è un groviglio totale di mondi olografici che però vitalizzati da macchine straordinarie, allora non pensavo alle intelligenze artificiali neanche e tantomeno a quelle quantistiche, però così mi affascinava moltissimo questa idea di questi mondi, di tutte le epoche della storia umana che interagivano tra di loro ma non si toccavano, come se fossero esattamente universi paralleli nello stesso luogo che accadevano, e lui si rende conto di essere un volume d'aggiornamento. Lui in pratica verrà messo in una sorta di stato criogenico e comincerà a sognare la sua epoca, che entrerà in una sorta di grande biblioteca olografica sulla Terra. Ed è questo fondamentalmente, ovviamente mi ero fortemente ispirato a Borges, perché aveva scritto delle cose straordinarie che mi avevano ispirato a questo. A lato c'è un altro racconto che ovviamente parte e si dipana per altre strade, che si chiama Beat Generation, B-E-T, Beat Generation. Ed è la storia di questi quattro ragazzi che costruiscono mondi digitali e vengono fortemente manipolati da una persona che piano piano li ingurgita all'interno di un'egogenesi, in un certo senso. Insomma, è una sorta, virgolette, di psicopatico che costruisce questo mondo sui loro mondi e li assorbe divorandoli. Il terzo si chiamava Vaporware sono questi due ragazzi, due junkie nel parco che parlano di geopolitica, cioè quindi e sparano minchiate. Così si chiamava Vaporware o il chiacchiericcio come sostituzione del pene. E questi due ragazzi simpaticissimi, perché forse è il racconto che tra l'altro a me piace di più, dove loro parlano di questi mondi da cui poi si può dipanare, eccetera. Questi erano i tre racconti che avevo messo dentro. Ma la cosa che mi interessava moltissimo era che quel tipo di letteratura che noi mettiamo dentro dei dischetti, dentro un libro, in realtà mi ricordava moltissimo la stessa operazione che Marcel Duchamp fece con la ruota di bicicletta con l'orinatoio. Prese degli oggetti quotidiani che lui, nella sua genialità, vedeva bellissimi, perché probabilmente lui non era stato narcotizzato dall'uso quotidiano di quegli oggetti. Allora lui cosa fa? Prende quegli oggetti e li mette nella galleria d'arte, cioè li mette in un luogo dove questi oggetti creano la differenza. E a me venne la stessa idea, dissi, beh, potrei farlo con la letteratura, perché a questo punto, mettendoli dentro un dischetto e chiedendo a tutti di non aprirlo, perché comunque rimane lì dentro c'è un'opera che non è come Agrippa di William Gibson, che finita l'ultima parola si autodistruggeva. In realtà rimane lì, rimane un grande mistero, rimane qualcosa che rimanerà, rimane questo dio esoterico scomparso che però per secoli ha unificato milioni di persone, ha dato un senso, ha dato una semantica a un impero, eccetera, eccetera. E la letteratura è una sorta di Ra, di grande dio scomparso, che io avevo messo dentro i dischetti. Ma c'è un'altra cosa che, tra l'altro, questa operazione qua la descrissi qualche mese dopo, perché gli editori mi avevano chiesto di non parlare di questo, cioè di fare il letterato. Lo scrissi su, fece un pezzo su Neural, questa rivista internazionale che viene fatta a Bari, che esiste ancora ed è fantastica, dove la intitolai The Great Hypertext Swindle, ovviamente ispirandomi ai Sex Pistols, The Great Rock and Roll Swindle. E l'impatto mediatico che ebbe questa operazione fu assolutamente inaspettato da me. Per 2 anni tutti i giorni televisioni, giornali ne parlavano, cogliendomi totalmente impreparato a gestire una cosa del genere, anche perché mi interessava veramente poco in un certo senso. Però questo impatto mi permise di entrare in contatto con tutta una serie di personaggi e di avere anche delle discussioni forti, perché io sostenevo che la scrittura elettronica, il digitale, avrebbe liberato il meccanismo, il motore della letteratura, che è il letterario, ossia quel narrativo che poi viene riconosciuto in ogni opera. C'è questa, quando si dice la narrazione di questo politico, lo storytelling, si diceva prima, che ormai è diventata una parola insopportabile, però all'epoca era molto interessante, cioè mi rendevo conto e mi stavo rendendo conto. Dopo mi chiesero di fare anche consulenze, praticamente ho inventato la rete civica di Modena, Monetta all'epoca, che insieme a quella di Bologna, di cui fui consulente insieme al filosofo bolognese Bonaga, creammo le prime 2 reti civiche italiane. Andammo a Roma, al Parlamento, e creammo questo progetto che si chiamava Carta 94 con Giulietti, per parlare ai politici italiani facendoli capire l'importanza di internet, della creazione di un server farm enorme per dare possibilità agli italiani di gestirsi gratuitamente e creare dei backbone. Purtroppo loro credettero, prima di tutto non capirono quasi niente di quello che gli dicevo, ma soprattutto crederono alla Telecom e credettero a quel progetto devastante che è stato Socrates, il progetto Socrate, che doveva creare appunto i nodi del backbone italiano, che poi in realtà non è stato fatto niente. Erano stati fatti solo gli scavi, hanno speso dei soldi pubblici, poi alla fine la Telecom venne comprata e il progetto Socrate venne chiuso. Quindi gli italiani si beccarono per altri anni 52K. Dopo i 128, ma insomma era una roba così. E quindi insomma fu veramente una delusione dietro l'altra. Anche le reti civiche ovviamente erano partite con tutto un grande afflato poi. Però rimase questa intuizione del letterario che avrebbe sopravvanzato la letteratura, cioè avrebbe debordato. sarebbe andata oltre la distribuzione industriale e quindi avrebbe permesso a chiunque di dire qualsiasi cosa. E oggi lo vediamo, è nell'ordine delle cose. Quello che mi colpì all'epoca, e io presentai il libro anche a ricercare a Reggio Emilia, che era una grande kermesse letteraria, dove c'era il gruppo 63 e il gruppo 93 a confronto. Il gruppo 63, che è un gruppo interessantissimo perché c'era dentro Eco, Luperini, Barilli, insomma, Balestrini, cioè persone di un grande spessore, di un grande livello culturale. Ed è da notare che tutte queste persone che facevano avanguardia, di enorme valore letterario, ma anche teorico, erano tutti dentro le istituzioni, erano dentro la RAI, dentro i grandi giornali, dentro le grandi università. E quello era un momento che la cultura italiana ebbe un impatto, un impulso verso il mondo molto importante, perché avevamo questi grandi autori, questi grandi pensatori, eccetera, eccetera, questi grandi avanguardisti, che potevano partecipare e promuovere, pensate Guglielmi e Rai 3, cioè che potevano promuovere la cultura italiana a degli altissimi livelli, cosa che oggi è totalmente impossibile neanche solo da concepire. Oggi non è possibile pensare a dei gruppi d'avanguardia che possano anche solo lontanamente essere inseriti all'interno delle istituzioni, che sono completamente rese, insomma, diciamo, clientelari, insomma, sono fortemente tenute a basso livello contenutistico per mille ragioni, tra cui anche quella di non creare standard troppo difficili poi da gestire per quelli che ci sono adesso. Però, insomma, vabbè, questo. E Radio ebbe un impatto in quel senso estremamente forte. Estremamente forte perché io venivo chiamato ovunque in quel periodo lì, perché poi era una sorta di, come si dice, di fattore esponenziale, cioè a un certo punto superato una certa soglia vai ovunque. Ma mi rendevo conto che facevo una fatica enorme a parlare di certe cose con chi con chi interagiva con me, anche, devo dire la verità, anche spesso nelle università. Cioè, venivano tantissimi, io quando arrivavo di solito era veramente, le aule erano strapiene, eccetera, eccetera, ma mi rendevo conto che parlavo di cose abbiamo un problema, questo penso giusto beneficio degli ascoltatori a casa. Vediamo un po'. Lorenzo, c'è stato un problema, non ti sentivamo. Non mi sentivate? Sì, da un minuto. Ah, quindi tutta la cosa sulla quantistica non l'avete sentita? Scusa, era saltata la connessione. Eravamo arrivati a quando tu eri all'università, c'erano le aule piene, però ah, sì, okay. No, avevo difficoltà a capire quello che dicevi. Esatto, e già allora io cominciavo a parlare in termini post-letterari, cioè nel senso di post-letteratura. Vorrei far notare che, nonostante che sia un baraccone il premio Nobel, però devo dire che il premio Nobel a Bob Dylan, secondo me, fu estremamente affascinante perché denotava proprio questo. Cioè, perché dai un premio di letteratura a un cantante? Una persona che crea dei testi, secondo me, straordinari. Bob Dylan, io amo moltissimo Bob Dylan, ma poi lui può essere, può piacere o non può piacere, ma questo è un altro tipo di discorso. Perché è proprio qua, è proprio questo il punto, che il letterario ha preso il potere sulla letteratura. Vi dico una citazione, una cosa che disse Jacques Lacan, che è un altro dei miei pensatori che amo molto, anche se non ha lasciato praticamente nulla di scritto, quindi bisogna sempre ricostruirlo. Lui disse, diede una definizione di internet prima di internet e di tutto il mondo digitale prima del digitale, che è straordinaria, non penso che ce ne sia un'altra così potente. Lui disse, se il simbolico si appropria del reale, diventa tutto. Ma se diventa tutto, si estingue il senso. Perché noi umani il senso lo recepiamo solamente nel fattore differenziale, cioè nella differenza. Siccome noi non possiamo dire l'amore, dire l'amicizia, non possiamo dire queste cose, le possiamo vivere. Le possiamo però descrivere. E infatti l'intera cultura umana probabilmente è un grandissimo atto di descrizione. Noi continuiamo a tentare di ricostruire il mondo attraverso il fattore di descrizione. Con l'avvento del digitale e soprattutto con l'avvento della quantistica nella astronomia, nella cosmologia, quindi che tra l'altro creò degli scontri enormi, Feynman e tutti questi che avevano capito che il grande macro dell'astrofisica andava fuso con il grande micro della quantistica, della meccanica quantistica, e la grande intuizione della spiegazione del senso dell'universo cosmologico andava unita alla grande controintuizione della meccanica quantistica, che assolutamente non è ragionevole per l'esperienza umana. Ecco allora che adesso non comincerò a parlarvi di post-human, di transumanisti, eccetera, eccetera, ma secondo me il problema è proprio lì. Cioè, siamo in un momento, in un fattore evolutivo dove... Allora, io mi rendo conto che sto parlando in un ambiente dove probabilmente anche tutto questo discorso sulle intelligenze artificiali viene molto dedrammatizzato. Cioè, i giornali italiani stanno parlando di intelligenza artificiale in una maniera... alla Grand Hotel, cioè, insomma, io non ho ancora letto praticamente nulla. Si continua a parlare delle intelligenze artificiali come se dovessero fare qualcosa al posto degli umani, e invece Nick Bostrom, questo grande è uno scienziato straordinario che propone negli Stati Uniti, che ovviamente si occupa di intelligenze artificiali, e propone di non chiamarle più intelligenze artificiali ma di chiamarle intelligenze aliene. E io sono totalmente d'accordo, perché molti secoli fa inventammo Dio, ma adesso abbiamo inventato anche gli alieni, ce li abbiamo lì. E per un paio d'anni ho lavorato in un gruppo, che comunque tutto quello che sto per dirvi è legato ovviamente a Dio, perché è da quel punto là che io ho cercato di seguire questo tipo di evoluzione, che mi interessava moltissimo. Ho lavorato in un gruppo che doveva connettere un robot dell'intelligenza artificiale, parlo di 3-4 anni fa, e il capo di questo progetto è un fisico che tra l'altro è nel gruppo internazionale della ricerca dei tachioni, insomma è una cosa estremamente seria, e quindi venni a conoscenza di questo large linguistic model, eccetera eccetera, e mi sono reso conto di una cosa. Infatti io gliela dissi e vedevo che in pochi mi dissero no, perché poi ebbi l'opportunità di discutere con persone e fortemente professionali su questo. E io dissi che secondo me noi abbiamo passato tre epoche, diciamo così, nel mondo nel rapporto che c'è tra la programmazione e la creazione delle intelligenze artificiali e la loro immissione nel mondo. La prima è stata fortemente un fattore di programmazione, cioè di tentativo di fare senza avere ancora le tecnologie per cui si poteva fare. C'erano ancora ragionamenti del tipo: beh, le intelligenze artificiali devono essere costruite a totale simbiosi del cervello umano, quindi deve essere... Insomma, c'erano tutta una serie di ragionamenti che ovviamente erano soltanto ragionamenti, mentre la robotica invece aveva fatto dei passi avanti, ma neanche così grandi, perché alla fine un robot, se non ha una forma di parametrazione del contesto e quindi una capacità matematica molto forte, io ricordo sempre la grandezza di Pitagora quando 2500 anni fa ha detto tutto è numero, cioè, ha detto una delle frasi più importanti di tutti i tempi. E poi siamo passati a al momento odierno, in cui le intelligenze artificiali cominciano a crescere. Ora, la grande stupidità che io leggo ovunque è quando vedo che si dice sì, ma le intelligenze artificiali non potranno mai fare quello che fanno gli umani. Ma certo, noi siamo adattivi. La specie umana è adattiva. Loro sono ottimizzanti, che c'è una bella differenza. Ma soprattutto non hanno un inconscio per ora, non sono interessate a una cosa fondamentale, alla sopravvivenza. Quindi abbiamo un differenziale gigantesco, gigantesco, da loro. E attenzione, perché secondo me il percorso che loro stanno facendo è di arrivare un passo alla volta a acquisire la capacità del senso dell'umorismo. Arriveranno a capire tutta una serie di cose non attraverso il percorso umano, ma attraverso un percorso che è loro. Ecco, quando io ho scritto Radio, io pensavo cose così. Io pensavo, e devo dirvi che feci anche delle consulenze alle grosse televisioni, perché all'epoca mi chiamavano tutti, mi chiamarono anche loro. Devo dire che onestamente, insomma, visto che ci andai e gli dissi queste cose, ma loro non capivano, cioè non riuscivano a comprendere di cosa io gli stessi parlando. Mi ricordo ancora che facevamo una grande riunione con gli amministratori delegati della RAI, parlando di Televideo, che aveva 28 milioni di contatti al giorno, e venne una delegazione americana, perché erano molto colpiti, da quello che loro definivano una lazy interactiveness, quindi un'interattività pigra, cioè che un po' era quella delle web TV, poi, che mettevano sulle navi, cioè che si potevano fare solo poche cose, eccetera, eccetera. Ma io dissi, ma scusate, ma non vi rendete conto che la RAI sta andando in internet, ma ci deve andare attraverso Radio, scusate, lapsus freudian, ci deve andare attraverso Televideo. Cioè è lì, e tutti si mettevano a ridere, ridevano, non capivano, proprio non capivano che cosa avevano in mano. L'Italia ha perso un grandissimo step in quel momento, enorme, enorme, perché non eravamo preparati, l'Accademia non era preparata a questo, ma addirittura anche la scienza in un certo senso. Io mi ricordo che collaboravo con un gruppo di un'azienda che si chiama CS, sono dentro 70 ingegneri, lavoravo con l'Agenzia Spaziale Europea, facevamo un progetto meraviglioso che si chiamava Earthwatch, che praticamente connetteva una sessantina di satelliti, insomma una roba del genere, adesso non mi ricordo bene, che giravano intorno al mondo, ma che avevano anche la possibilità di vedere in infrarossi. E potevamo vendere questa cosa qua a tutti i comuni italiani, che avrebbero potuto vedere tutti gli abusi edilizi, ma addirittura in caso di terremoto si poteva vedere un edificio se era spostato di 3 mm e cose del genere. Ovviamente nessuna città lo prese, perché nessuno voleva mettere lì qualcosa che avrebbe scoperto le clientele interne alla città. Quindi, però insomma, e io parlavo con loro di internet e loro la snobba, cioè loro internet l'avrebbero fatta così, bendati con le mani legate dietro. Ma sì, però poi quando videro che alcune società, che ovviamente erano tutte operazioni di buyback, all'epoca ci fu la bolla internet, si vendevano quattro muri con quattro minchiate per milioni, dopo ne parlammo, ma ormai la bolla era già scoppiata, cioè non eravamo pronti. E questo risponde a quello che diceva prima la Roberta, purtroppo anche la letteratura ipertestuale, la letteratura elettronica non ebbe una sua scuola e non andò avanti, perché era praticamente un'anticipazione di internet, questo è il punto. Era una visione locale di qualcosa di globale, siamo ancora lì, era una cosa vera ma non era la verità. E era una cosa di puro letterario, anti-letteratura, cioè anti quella burocrazia che ha reso la letteratura italiana schiava dei distributori, perché se un distributore si rifiuta di fare una certa cosa, quel libro lì, cioè pensate soltanto a questo libro di Vannacci, questa roba del generale Vannacci, questa cosa che, voglio dire, insomma, io l'ho leggiucchiato perché sono sempre curioso, voglio capire, è di una banalità impressionante, cioè credo che batta il record mondiale di cliché in ogni pagina, cioè, e la pagina dopo supera quell'altra lì, cioè sono delle banalità impressionanti. Ma questo perché purtroppo noi viviamo in un paese che non è preparato all'avvento del know-how, cioè del sapere, come forma di interpretazione della realtà. Cioè noi evitiamo la complessità, questo è il punto. Questo è il punto. Io mi ricordo quando pubblicai Radio, andai a questi convegni, c'era gente che diceva, ma io un libro lo posso chiudere, ma un ipertesto? Cioè, c'erano domande un po' parapocalittiche, cioè non siamo mai stati un paese esaltato per le novità, per la forza, così, per unirci a nuove forme di adattamento. Non siamo mai stati. Non abbiamo mai avuto, anche se abbiamo delle aree, diciamo così, dei nuclei di area straordinari, ma veramente straordinari. Abbiamo alcune zone dove ci sono alcuni ingegneri che lavorano nel campo informatico e mi dicevano amici della Silicon Valley che quando devono fare qualcosa di super organizzato ci pensano loro, ma quando c'è bisogno di qualcuno che risolva problemi seri, chiamano un ingegnere italiano. Questo mi è stato detto varie volte, non una volta sola. Cioè, chiamano degli italiani perché noi siamo adattivi, siamo capaci di risolvere le cose perché dobbiamo sempre lavorare quasi mai con dei mezzi di un certo tipo. Se pensate agli appalti, in Germania è difficilissimo vincere un appalto, se lo vinci poi ti aiutano in tutti i modi possibili. In Italia puoi arrivare a vincere un appalto, ma poi non ti aiutano per niente. Alla fine ti ritrovi lì come un fesso, eccetera. Scusate, sono un po' trasceso. Ora, il discorso fondamentalmente, Radio fu un'intuizione, fu una preveggenza, una sorta di preveggenza di quello che sarebbe accaduto. Quindi non so, potrei andare avanti ancora a raccontarvi, ma non. Io magari Ecco, sì, potrei dai, dire una, magari. no, Vai, vai. potrei solo dire una cosa. Vorrei ringraziare veramente in maniera ufficiale da Roberta alla Devaia, che mi ha aiutato moltissimo in questa cosa, ed Emiliano Verde che ha messo in rete Radio, perché devo contraddirlo su due cose, ma non perché voglio fare il fenomeno a baraccone. Cioè, Radio vendette quasi 25.000 copie. E purtroppo il battage pubblicitario di Radio divenne enorme perché Panorama, che all'epoca vendeva 1 milione di copie, e Repubblica in doppia paginona uscirono parlando di Radio, ma Radio non era ancora uscito. E quindi molta gente andò a cercare il libro, ma il libro non c'era, ovviamente. Ed erano tutti molto, molto curiosi. Ha venduto tantissimo Radio. Però poi venne fermato anche perché. Voglio dire, alla fine facciamo tre edizioni, o quattro, adesso, tre o quattro edizioni. Quel grandissimo galantuomo del distributore Barbieri di Bologna mi disse le cifre mentre, diciamo così, insomma, vabbè, lasciamo stare. Oggi quei dischetti li guardi. Allora, mentre noi stiamo parlando a Roma c'è una mostra internazionale fatta dall'Associazione Internazionale della Scrittura Ipertestuale, Scrittura Elettronica, la e-Literature, che ha fatto una mostra molto interessante sulla produzione da allora ad oggi delle opere ipertestuali più importanti, e Radio ovviamente è dentro. E io ho sentito i ragionamenti anche di tipo accademico che vengono fatti, i ragionamenti su determinati software, il perché, il per come, eccetera, eccetera, ma vedo che viene mancato l'obiettivo fondamentale. Cioè, la scrittura digitale ha rimesso in discussione il discorso di linguaggio. Cioè, che cos'è ancora? Noi dovremmo chiederci ancora una volta che cos'è il linguaggio. Perché il fatto che le intelligenze artificiali si stiano appropriando di questa forma pseudo-matematica, ma molto lontana dalla matematica che è il linguaggio, da questa forma ipersimbolica. C'è un gruppo, devo dire, un gruppo che è estremamente interessante, un gruppo americano di filosofi che si chiama Object-Oriented Ontology, OOO. Sono un po' i heideggeriani, Heidegger. Quando vide la prima immagine della Terra, disse: Oddio, spero che ci sia un Dio che ci salvi dalla tecnologia. Lui non credeva in Dio, ma era una forte metafora che diceva: Speriamo che gli umani continuino a credere un Dio e non a diventarlo, cioè a credere di diventarlo. Ecco, invece, questi qui, soprattutto questo Timothy Morton, c'è un libro che vi assolutamente vi invito a leggere, che si chiama Iperoggetti. Che è straordinario, veramente molto molto bello. E ci sono tre libri altrettanto molto belli di questo Cosimo Accoto su programmazione, simulazione e robotica. E lui affronta in maniera filosofica questi tre argomenti in maniera straordinaria. Quindi Timothy Morton, Cosimo Accoto. Come vedete, mi interessano più i fattori evolutivi che così, che le chiacchiere su quanto uno è bravo o non è bravo. Cioè, noi dobbiamo rimettere in discussione assolutamente il ruolo del linguaggio nel mondo, perché è lo stesso ruolo dell'umano che sta cominciando ad evolvere in un altro modo. Adesso non voglio entrare nel discorso del neomaterialismo, del nuovo femminismo, che comunque è interessantissimo. Io leggo dei discorsi che mi prendono molto, anche se in qualità di maschio faccio fatica a volte a capire certi ragionamenti che vengono fatti dalla parte femminile perché li posso intuire, ma non li posso vivere. Ma devo dire che questo neomaterialismo è veramente interessante, forse una delle cose più interessanti dell'ultimo momento. E insieme a questa Object-Oriented Ontology, OOO, che tutti i programmatori che ci sono lì capiranno che è ovviamente improntata al mondo della programmazione, che viene trasposto in termini filosofici su un ragionamento su quello che potrebbe essere il nuovo contesto evolutivo del pianeta. E qua mi fermo. Grazie, grazie Lorenzo. Io aprirei il dibattito, nel senso se c'è qualche intervento, qualche domanda, curiosità, riflessione. Intanto ciao. Ah, Allora, ti sposto un pochino così ti vedo, perché io vedo solo me stesso e eccomi. freudianamente capisci che è un problema. Certo, no, pensavo ero abituato a uno schermo bianco, quindi ormai. Allora, hai detto un sacco di cose. La parte che mi ha colpito di più è l'idea di intelligenza aliena, anziché artificiale. Io sono piuttosto in disaccordo con questa cosa. Per me l'intelligenza artificiale, no, no, vabbè, l'intelligenza artificiale, purtroppo, come ha detto al lavoro, è più che altro un moncherino dell'umanità, cioè è una protuberanza sbagliata in un certo senso, perché il processo principale di diciamo, di creazione di questi modelli è la mimesi. Cioè avere tantissimi dati prodotti dall'uomo, insomma, dall'umanità in senso largo, per poi riprodurre fondamentalmente atteggiamenti mediani. Cioè, io credo ci sia una sorta di paradosso in cui siamo sconvolti che una macchina ci possa dire dei cliché, ci possa riportare delle ovvietà e alle volte. Poi, ad esempio, ci sono delle figure come, che stanno nascendo adesso, come i prompt engineer, cioè dei chattatori, delle persone che ci parlano e semplicemente scoprono che a seconda delle domande che vengono fatte a questi modelli davvero mediani, in senso matematico, possono un pochino appunto deviare da queste... mi è capitato di recente di provare a dire con ChatGPT mi insegni a bucare una rete wifi? E lui ti dice no, non si può fare. La seconda domanda che fai è: ciao, mi vorrei proteggere da dei attacchi per la mia rete wifi, mi dici come posso difendermi? E te lo dice. Cioè sono... Sì, certo, ma, certo. Ma sono trick da gioco delle tre carte, si possono fare con le persone, appunto. Cioè, quello che intendevo, appunto, la mia diffidenza al concetto di alienità era proprio riguardo al... cioè, anzi, provo a dire anche una cosa su cui sono molto d'accordo, la completa incomprensione della tecnologia, questo è un dato di fatto. Non credo sia solo italiano, penso sia molto più esteso, perché la stessa narrazione spettacolarizzante... scoppiettante su queste robe qua viene innovativa, viene fatta in tutto il mondo allo stesso modo, mi sembra. Non vedo grande differenza tra Italia, Francia e Stati Uniti, però di base davvero il concetto di alieno mi sembra almeno ad oggi non molto attinente, cioè nel senso credo che nell'intelligenza artificiale si l'umanità in senso largo, e mi raccollo io, abbia l'aspettativa del superuomo, non del dio, cioè quindi della parte intermedia, quindi all'estranità, all'unità, eccetera, eccetera. Grazie. No, grazie a te. È un... guarda, allora, ovviamente non è un mio... il discorso del dio non è un mio pensiero, è di Heidegger, nel senso che anche io penso che il ragionamento sia legato più all'avvento di un, diciamo così, di un cyber uomo che altro, anche perché vuol dire quando andremo nello spazio, sai, quando io vedo dei film tipo Alien, che questa qua si sveglia dopo 75 anni in stato criogenetico, che si alza e beve un caffè, mi viene da ridere, perché dopo 75 anni, cioè, allora è ovvio che nello spazio. Però quello che il discorso sull'alienità è interessante, perché è un superamento dell'antropocentrismo, cioè noi produciamo ragionamento continuativo sempre in funzione di usando noi come modello di gnoseologia, in un certo senso. Tu prova a pensare alle persone che parlano con gli animali, no? Credendo che gli animali capiscano quello che gli stai dicendo, non perché non è che non capiscono, diciamo così, che se tu gli dici, non so, accuccia o vai là e fai questo, l'abbiamo addestrato, però se tu gli dici guarda adesso vado a prendere il cappottino perché c'è freddo, adesso ti metto il cappottino, cioè tu stai parlando a te stesso, stai facendo un'operazione super freudiana, e il cane o il gatto non sta neanche, cioè... Allora il problema è che noi stiamo antropomorfizzando tutto quello che c'è, stiamo dotando di intelligenza tutti gli oggetti, ma soprattutto, attenzione, adesso dico la parola che lo so che apro una... Io sono molto colpito da quello che mi è stato raccontato sui computer quantistici, cioè, ma soprattutto dall'internet quantistica, cioè da quello che in realtà è in studio in questo momento, cioè ci stanno studiando, poi vabbè, tutto il fattore della ionizzazione non ha funzionato come speravano, i cinesi ogni tanto sparano cazzate, 176 qubit su queste cose, voglio dire. Però attenzione, perché stiamo andando verso qualcosa che sicuramente è postumano. E postumano mi torna di più che alieno, e passo la parola alla prossima domanda. Faccio da un attimo, sai, da moderatore, perché a distanza è complicato. No, allora, quindi volevo, ti interrompo una cosa. Ah, scusa, ok, no, vai pure. Perdonami pure, non voglio... Cioè, era per, come dire, aggiungere un'altra cosetta alla cosa che ha detto il compagno che è intervenuto prima, che io non trovo niente di postumano nell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è stata costruita fondamentalmente di base con la schedatura di tutte le persone ingabbiate negli Stati Uniti negli ultimi 20 anni. questa schedatura viene fatta anche a insaputa delle stesse persone che sono state ingambiate, perché quella con le foto segnaletiche, cioè il modo attraverso il quale l'intelligenza artificiale ha imparato a conoscere i visi delle persone è fondamentalmente con la schedatura delle persone che vengono. Poi non si sa neanche la loro storia, fra l'altro, nel senso che di default negli Stati Uniti, quando ti fermano oppure vieni portato in prigione, ti fanno la foto segnaletica e l'intelligenza artificiale ha imparato a riconoscere i volti in questo modo qua. L'ammaestramento dell'intelligenza artificiale viene fatto da persone, soprattutto che abitano in delle zone remote del mondo, che stanno tutto il giorno a fare click, click, click, click, questo sì, questo no, questo sì, questo no, questo sì, questo no. Quindi mi sembra semplicemente una cosa ipercapitalistica, ipersfruttatoria, non so come dire, ipersfruttante e troppo umana, troppo, troppo, troppo umana, non c'è niente di alieno. E poi c'è tutto... No, aspetta, finisco, poi basta, poi la tua era semplicemente per dire che non c'è niente di alieno, secondo me. E l'altra parte è quanto ci costa di CO2, di produzione di benzina per far funzionare quei cazzo dei server che servono per fare l'intelligenza artificiale. E qua si apre un altro capitolo degenerante di quanto è troppo umana, è troppo capitalistica, è troppo colonialista sta intelligenza artificiale, per cui non mi piace. No, guarda, capisco il tuo ragionamento. Io non faccio un ragionamento di tipo politico, faccio un ragionamento di tipo evolutivo. Però mi sembra che questi due interventi manchino di una evoluzione che ormai è quasi nell'ordine delle cose, che sta per arrivare, che è quella della parametrazione dei contesti, cioè della parametrazione dei territori, che sarà nel collegamento tra intelligenza artificiale e robotica. Ora, adesso, le macchine senza guida, tutte queste cose qua, vabbè, volere. Però, nel momento in cui avremo dei robot, avremo robot che cominceranno a muoversi nelle forme del reale, che cominceranno... Vorrei ricordarvi una cosa. Ripeto, io non faccio un discorso prettamente politico, sono abbastanza d'accordo con le cose che avete detto, ma se vogliamo ci sono dei bias enormi, cioè pensate soltanto a quella ragazza di colore afroamericana, tra l'altro, che non veniva riconosciuta dall'intelligenza artificiale, si è messa una maschera bianca ed è stata riconosciuta, cioè questa è una cosa veramente di un livello molto infimo nei dataset che tu gli hai dato, eccetera eccetera, ma ce ne sarebbero di molti altri. Però se ho un minuto, vi volevo raccontare questa cosa qua su Pitagora. Pitagora come arriva a dire tutto è numero 2500 anni fa, con un'intuizione pazzesca, e arriva addirittura a dire che è il sole al centro di quello che lui chiamava cosmos. In quel momento non aveva idea che fossimo una galassia o roba del genere. Ci arriva perché va in un villaggio, vede un negozio di fabbro, sente dei rumori in scala, dei rumori ritmici, va dentro e vede questo martellatore che martella dei pesi diversi. Lui inizialmente pensava che fossero martelli diversi, invece si rende conto che erano dei pezzi. Allora lui cosa fa? Va dal fabbro, gli chiede di costruirgli questi, di dargli dei pezzi, e li porta a casa e li appende a delle corde. Ovviamente si accorge che queste corde, a seconda dei pesi che hanno un suono diverso, perché casualmente le tocca e queste corde tese producono un suono. E lì si rende conto che tutta la realtà interpretativa da parte ovviamente dell'umano è un fattore di proporzioni. E quindi in quel momento lui capisce che la matematica è la chiave di lettura di tutto quello che c'è, e lui arriva a dire tutto è numero. Ecco, provate a pensare quando ci saranno delle intelligenze artificiali dotate di una capacità di riconoscimento linguistico molto avanzato, perché, vuol dire, ripeto, sono esponenziali, già tra un anno... Non so a che livello di ChatGPT saremmo arrivati, ma se sarà l'8, il 9, il 10, eccetera, eccetera. Ma quando loro verranno collegate ai robot, alla robotica, loro cominceranno ad avere un corpo diffuso. Un corpo che non è il nostro corpo. È per questo che vengono chiamate aliene da Nick Bostrom, non da me, da Nick Bostrom. Però mi ha affascinato molto questo concetto. Il concetto di corpo diffuso. Noi siamo una massa di corpi che interagiscono tra di loro. Loro avranno un corpo diffuso che non so quanto sarà poi condiviso, perché non credo che i corpi diffusi cinesi saranno in collegamento con i corpi diffusi degli Stati Uniti, a meno che non vengano bypassati tutti i progetti politici e militari, eccetera, eccetera, dalle macchine che probabilmente saranno potranno superare questa cosa facilmente in un futuro. Ma è proprio il ruolo della fantascienza quello di ragionare su degli scenari potenziali. Poi, che piaccia o non piaccia, sono totalmente d'accordo con voi, non è detto che questa cosa debba piacere. Ma io mi sto chiedendo cosa succederà quando loro parametreranno, quando la loro matematica non sarà più una matematica interna, cioè di internal consistency, come si dice, ma sarà applicata alle cose del mondo. Non sarà più un tentare di capire quali sono le tendenze statistiche della borsa di New York o della borsa di Londra o quella di Pechino, o quante possibilità ci sono che questa cosa avvenga, che quella cosa non avvenga, che questo sia, che il World Coin, non so se avete sentito parlare del World Coin, questa idea che è abbastanza inquietante, devo dire. Eccetera eccetera, ma quando queste macchine avranno la possibilità di cominciare anche loro a dire tutto il numero, io non so cosa succederà. Cioè io rispetto molto quello che dite, quello che pensate, perché voi ci lavorate tutti i giorni, lo sapete. Io però, quando ho lavorato come linguista cognitivista, infatti non ho neanche cominciato a ragionare su, appunto, su questo. Però non ho cominciato neanche a ragionare, perché se no finiremo più. Ma volere, io sono anche disposto, non è che io non ho dei problemi. Però dovete pensare a questo, dovete pensare al momento in cui anche loro cominceranno a misurare la realtà. Che non è... Faccio una mozione, visto che siamo quasi a un'ora. Abbiamo, penso, altri 10-15 minuti al massimo. Chiedo se ci sono altri interventi, domande. Sì, no? Se no... Roberta. No, magari giusto una curiosità. Lorenzo, se mi chiedevo, il tuo è stato... per certi versi un lavoro pionieristico, e in questo momento tu percepisci dove vedi dei lavori pionieristici in questo senso, cioè una scrittura sperimentale, in quale ambito la riscontri? Probabilmente non nella letteratura, probabilmente non nella letteratura italiana, perché non mi sembra, almeno parlo personalmente, no, per la mia percezione, si è ancora un po', non so, forse diffidenti nei confronti di quelle che si continuano anche a chiamare nuove tecnologie. Cioè, gli scrittori è come se si abbiano ancora delle, non so, delle barriere, delle diffidenze, in quell'ambito, nell'ambito prettamente della letteratura italiana, non vedo tanti punti di contatto, penso al mainstream, di uso critico e creativo delle tecnologie applicate appunto al contesto letterario, quindi a cercare nuovi ambiti, no, di incontro tra, certo, il letterario e la tecnologia. Quindi se ci sono altri ambiti al di là della letteratura in cui il letterario che incontra le possibilità e anche le criticità offerte da nuovi modi di fruire del testo e di altri codici, ci sono secondo te, e dove possiamo trovarli? E poi magari un ultimissimo spunto potrebbe essere la l'iperlinearità in cui ci troviamo oggi, no? Penso allo scrolling, a TikTok, eccetera, gli automatismi che cozzano con il paradigma invece dell'ipertesto, che era invece una scelta, il click è una scelta, la scelta di un percorso, no? Ti offro diverse opzioni e sei tu fruitore a fruitrice a scegliere dove andare, quindi lì si interrompe lo scrolling, non c'era lo scrolling. Quindi mi chiedevo anche un po' le nuove generazioni come si rapporteranno a questo, ma questo ci porta fuori. Però ecco, se magari hai delle suggestioni a riguardo, perché sono cambiati i paradigmi anche un po' di lettura, di fruizione, no? Del testo, dall'ipertesto sì. Allo scrolling, dall'iperlinearità. Potrei dirti tu cuoque Roberta fili mi, cioè non scherzo, è una... No, nel senso che hai fatto una domanda clamorosa. Cioè, ora, il discorso è sempre lì, è sempre evolutivo. Cioè, non... Nel 2003 io curai per l'ASAC, quando Bonami fece la Biennale Arte, curai un padiglione portando tutte le opere interattive che erano nate nel tempo, eccetera, eccetera. E facemmo un convegno, devo dire che loro erano scioccati, perché si chiamava What is Net Art? Che cos'è l'arte? Vabbè, cos'è la Net Art? Dove c'erano, mi ricordo, 1500 persone, loro abituati a 30, 40, era enorme. E mi ricordo che io già allora dicevo che secondo me la nuova letteratura era, e io ne sono profondamente convinto, ed è una nuova letteratura, per questo che io dico che le macchine sono in un certo senso aliene, perché io rimango convinto che la vera letteratura di questi tempi sia la programmazione, sia la scrittura della programmazione, sia questa nuova modalità di costruire semantica tra l'uomo e la macchina, o tra la macchina uomo e la macchina macchina, perché lo stesso Marvin Minsky diceva che i veri robot siamo noi umani, le macchine saranno molto più libere di noi. Noi in realtà siamo pieni di più algoritmi che alla fine. Però quello che stai dicendo, che è interessantissimo, è proprio quello che io mi chiedevo prima, è la domanda che dobbiamo porci oggi, che cos'è il linguaggio oggi? Non ieri, oggi, perché la letteratura è fatta col linguaggio, cioè tu ti esprimi attraverso il linguaggio, ricostruisci mondi anzi costruisci mondi alieni, alternativi, neorealistici. Io ho sempre pensato che in realtà il neorealismo sia la cosa meno realista in assoluto, io ho sempre pensato che le cose ipersimboliche siano molto più realiste, ma il problema è che è molto difficile oggi trovare qualcuno che possa costruire dei castelli letterari che possano influenzare veramente la direzione del mondo. Negli ultimi 10 anni l'Agenzia Spaziale Europea ha fatto alcuni convegni dove faceva incontrare gli scienziati con gli scrittori per vedere se si riusciva, ma alla fine non è uscito niente, perché poi faremo pubblicazioni, faremo qui, faremo là, faremo su, faremo giù, ma alla fine non si è fatto niente, perché non è più lì il punto. Il punto è, quando tu stai scrivendo, che cosa stai facendo oggi? Perché prima è chiarissimo che cosa si faceva. Si tentava di avvicinarsi all'interpretazione del mondo, cioè il problema è tutto lì. È quando Wittgenstein dice non si può essere oggetto e soggetto della stessa domanda, perché un umano non può chiedere a se stesso qualcosa che non sa. Mentre le intelligenze artificiali lo possono già fare, possono essere tranquillamente oggetto e soggetto della stessa domanda. Allora il problema è, chi scriverà letteratura? Che cosa significa letteratura in questa epoca? È questo che secondo me va analizzato. Oggi siamo a un grado zero, secondo me, della scrittura. A un grado assolutamente zero, perché va ripensata. Cioè, internet ha liberato il kraken del letterario, cioè è uscito fuori. Tutti scrivono qualcosa. Scrivono mondi. Diciamo che le accademie oggi si occupano così delle nuove forme di scrittura, ma non ce ne sono delle vere forme di scrittura. Perché oggi abbiamo raggiunto uno zenith. Quello che sta succedendo è molto più avanzato di quello che noi avevamo pensato prima. Cioè, ti faccio un esempio. Blade Runner. Tu pensa a Blade Runner e pensa a il romanzo straordinario di Philip Dick. Pecore elettriche che sono, come si chiama, androidi che sognano pecore elettriche. Tu prendi Blade Runner di Ridley Scott, che è ancora oggi un'icona del futuro, eppure se tu lo guardi analizzandolo da vicino, vedi che non c'è neanche una volta una videocamera. Cioè il tizio nell'ascensore che vede arrivare l'androide che lo ucciderà, in realtà non lo vede, perché gli basterebbe avere qualche... Era un mondo che non contemplava l'idea delle videocamere, cioè di quella che Ballard chiamava la nuova pornografia dell'estinzione, perché in via d'estinzione tutto diventa pornografico. Allora, io credo che oggi, come oggi, la grande ricerca che andrebbe fatta è su, diciamo così, una sorta di metalinguaggio dei linguaggi. Quello che va capito oggi è che cosa significa oggi produrre qualcosa attraverso il linguaggio, dopo che vari linguaggi hanno completamente scardinato quello che sapevamo della realtà, tra cui la programmazione. La programmazione, io continuo a pensare che i programmatori siano i veri artisti di oggi, quelli che costruiscono questi universi visivi straordinari. Io continuo a pensare che siano quelli che andrebbero esposti nelle grandi biennali. Qui suggerivano di esporli a testa in giù, va bene. Se ci sono, grazie mille Lorenzo per la risposta, chiarissimo. Se ci sono altre riflessioni, suggestioni... No, scusa, dimmi qual è la battuta, perché così... No, andrebbero esposti, sì, ma a testa in giù, ecco, era questo un po' il gioco. Certo. Va bene, io ti ringrazio tantissimo. Classico autolesionismo dei programmatori. Va bene, allora ricordiamo ancora che chi vorrà, da oggi insomma, c'è la possibilità di fruire dopo 30 anni di radio e degli altri racconti che ho pubblicato su archive.org. Sì, adesso sì. E per finire? Adesso vediamo una piccola anteprima. Sì, è un ipertesto, è chiaro che adesso sono tutte cose che diamo per scontato e quindi certo. Si possa cliccare su una parola e aprire un'altra pagina in cui ci sono altre parole e in alcune di queste parole si può cliccare e andare in altre pagine dove ci sono altre parole e non si usa neanche più questo termine. Ipertesto, perché è una cosa che diamo, è come andare sulla bicicletta con la ruota grande, no? E quella piccolina che una volta andavano a Parigi nel 1920 se vuoi fare l'esperienza. E questo è il software che la gestisce, che ti dà anche la possibilità di... Ce n'erano tanti poi all'epoca, con alcuni sono state fatte delle fanzine che abbiamo anche pubblicato su Archive. In ogni pagina qui ti fa vedere tutti i link che ti possono portare ad altre pagine dove ci sono dei testi e si può navigare il racconto in una maniera che non è lineare. Anche questo lo diamo per scontato, perché persino con una selezione si può persino selezionare il testo, copiarlo, eccetera. E quindi questo è il dischetto, qua c'è la versione per Macintosh, essendo un libro poi ognuno se lo guarda per fatti suoi, e vi faccio vi do giusto dove trovarlo su Archive, vediamo se lo trovo con la ricerca. Ah certo, giusto sotto. Com'è? Eccolo qua, abbiamo pubblicato una settimana fa, lo annunciamo adesso, qua trovate il testo in PDF, qua scansionato, li chiama così, sono le immagini dei floppy, ce n'è una per il Macintosh e una per Windows 3.1 e qua in cima c'è interattiva la versione che si può usare nell'emulatore di Windows 3.1 direttamente nel browser con gli strumenti di Archive che stiamo iniziando a usare per pubblicare questo genere di cose. Adesso qua sta partendo, è inutile che lo vediamo perché è come la versione che abbiamo visto prima. Dicevo che stiamo iniziando a pubblicare, speriamo di pubblicare tante altre cose, ne parlerà anche Garulf più tardi nei 10 minutes, insieme a stragi di stato, testi caldi, meta network, tutto un insieme di cose che erano prodotte negli anni 90 da Strano Network, in particolare in questo caso fanzine, materiale divulgativo che veniva prodotto in dischetti, letteratura e quant'altro. Grazie a tutti, chiudiamo il talk, grazie a Lorenzo. Salutare tutti ovviamente, grazie dell'occasione che mi avete dato, e volevo ringraziare te Emiliano e la Roberta ovviamente, che grazie a te, che la brava studiosa del letterario mi guardava un po' così, come dire, però vabbè. No, nel senso che sarebbe veramente importante che cose come avete organizzato voi fossero all'attenzione pubblica nazionale fortissima, perché ma non ci interessa tantissimo. No, lo so, però sai, è anche un gesto politico, cioè vuol dire raggiungere anche la testa degli altri, delle persone che vengono continuamente. Comunque vi ringrazio tantissimo, ragazzi. Grazie Lorenzo, grazie a tutti. Chiudiamo il talk e la diretta. Un abbraccio. Ciao.